up, I gotta go. And it's alright if you want to see through your tomorrows, but right now, I gotta go. If you want to stay, then you can be here with me. But I can't let go of this love, oh no, so easily. I said, if you want to stay, then you can be here with me. But I can't let go of this love, oh no, so easily. Flying Lotus, ecco, questo brano è adatto per quella sensazione che si ha quando si alza presto e punti la sveglia, no? Però ti alzi un pochettino prima, anzi no, scusa, ti svegli un pochettino prima del suono della maledetta a volte sveglia e dici, beh, non è ancora partita, per cui posso un attimo stiracchiarmi. Intanto che sei nel bel mezzo dello stirarti, brava, riparte la sveglia, dici, no, ma come? Di già! Il disco è così, non sta saltando, è quello che volevo precisare, perché Flying Lotus, tra l'altro, è nipote, mi pare, di Alice Coltrane, il grande John Coltrane, che sente da queste sonorità che hanno tra lo spiritual jazz e il dubstep, oltre che la bellissima voce che lo accompagna in questo brano, sì, di Andrea Triana, che abbiamo conosciuto con la Ninja Tune. Questi scattini che vengono interrotti. Allora, questo sto un pochettino temporeggiando, perché non è immediato presentare una rassegna così importante come Plurali Maschili. È partita ieri, sarà fino al 14 luglio. Sì, perché c'è sempre quell'attenzione che giustamente noi uomini occidentali, bianchi, dobbiamo tenere, e a volte con una difficoltà per riportare determinati contenuti ci ritroviamo un po' balbettanti. Ecco, volete togliere ogni tipo di balbuzie? Seguite Plurali Maschili, è un festival di genere con delle indicazioni molto importanti per quanto riguarda una mascolinità che non vuol dire assolutamente supremazione o suprematismo, scusate, supremazione, vedete cosa dico anch'io, un suprematismo macista che è un motivo ulteriore di gravissima difficoltà per lo stesso uomo. Di questo ne parleremo anche all'interno del contenuto di presentazione per Plurali Maschili, oltre che una metastasi per tutto ciò che è un mondo che deve essere assolutamente d'incontro e progressista. Le cose e i percorsi che conosciamo purtroppo hanno subito e stanno subendo una reazione. Per essere ben informati, e non solo, anche per avere un motivo di incontro e di festa in un luogo che sono le serre dei Giardini Margherita, tra musica, suoni, dibattiti, parole che diventano concretezza tra tutte e tutti, beh, direi che non possiamo che ringraziare sia Kilowatt che l'Osservatorio Maschile, che daranno chiarezza per quanto riguarda tutto ciò che in maniera così frammentaria ho presentato. Massimo Tiburli Marini è per quanto riguarda Kilowatt, Claudio Nader invece per Osservatorio Maschile, e quindi direi di iniziare ad approfondire Plurali Maschili, un festival di genere. Possiamo iniziare questa nostra conversazione come una finta diretta a tre voci per quanto riguarda la presentazione di Plurali Maschili, un festival di genere. Fondamentale presentarsi, siamo in compagnia di Massimo Tiburli Marini di Kilowatt e Claudio Nader di Osservatorio Maschile. Cominciamo con Massimo allora, di che si tratta questo motivo di incontro, linee generali? Allora, di che si tratta? Si tratta di un festival, appunto, quindi nella stessa parola vogliamo anche fare festa, in cui per 4 giorni affronteremo molti argomenti relativi alle questioni di genere da un punto di vista interrogando la maschilità. Quella grande scomparsa, nel senso che ci poniamo in dialogo con i movimenti femministi, in assoluto ascolto e consapevoli di anche, diciamo, delle posizioni di spesso di privilegio che rivestiamo in quanto uomini, nello stesso tempo sentiamo forte l'esigenza di portare

Ce n'era veramente bisogno come l'aria, se non di più, di un aspetto tale che portasse una concretezza oltre che una sensibilità ulteriore, un plurali. In questo caso il plurali ci sta perfettamente a proposito del maschile. È indispensabile questo festival che ha già visto l'inizio nella giornata di ieri. Tra l'altro, così non ho potuto presenziare a questa apertura, ma mi hanno detto e confermato che è molto molto importante. Oggi alle ore 16, trasformare la cultura della violenza, contrastare la violenza di genere trasformando la cultura che la produce, a cura di Associazione Maschile Plurale. Alle 18.30 un talk, lavoro e questioni di genere, dal welfare interno alla gender policy, per esplorare i cambiamenti in corso nelle culture aziendali. Dopodiché si procede, 20.30, uomini e femminismi. Alle 22.30, come già stato detto, il tango qui. Ricordo che il tango, tra l'altro, nasce e lo potevano ballare solo gli uomini tra di loro. Questo è una cosa un po' strana, però insomma, è che tra l'altro il rosa nasce come colore tipicamente maschile. Lo sapevate questo? È così. Quindi certi stereotipi sono veramente da abbattere totalmente. Perché mi è venuta in mente questa citazione? Perché sabato 13 luglio, oltre il blu e il rosa, approfondimenti di educazione alle differenze. Dopodiché alle ore 16 la presentazione di Riscrivere la mascolinità e il nudo maschile. Il DJ set delle DJ Rina e DJ Ghetto Sdaure, già questo nome mi piace tantissimo. Domenica si chiude il sesso maschile alle ore 19 e alle ore 21 il dibattito per superare l'idea ristretta di vero uomo ed esplorare la ricchezza di un genere che è molto più variegato, ribadisco, è molto più variegato di quanto ci raccontiamo. Plurali maschili alle ore 21, la chiusura per domenica. Come sono andato, Anna? Tutto a posto? Perfetto, sei un classico caso di un tipologia di maschio. Ok, una tipologia perché una sua originalità, con una sua originalità, non stereotipato. Esattamente, esattamente quello che volevo dire. Perché poi lo stereotipo porta a bullismo, l'aggressione, tutto quello che conosciamo, soprattutto tra i più giovani, e quindi che ci sia motivo di incontro allo stesso tempo con un aspetto di convivio in un posto molto bello che sono le serre dei Giardini Margherita è un fondamentale. Grazie sia a Massimo Tiburli Marini per quanto riguarda Kilowatt nell'organizzazione e a Claudio Nader per Osservatorio Maschile nell'organizzazione di questa prima edizione. Posso aggiungere una cosa sul il discorso del dov'è il ragionamento sul maschile ad oggi? Perché spesso si parla di quante cose dobbiamo cambiare, diciamo, riguardo alla maschilità. Secondo me la cosa interessante che sta emergendo in questi anni da tante realtà che sono quelle maschile è che ci sono cose che vogliono essere cambiate, cose che vogliono essere mantenute ed evolute. Non è tu, perché sennò a volte sembra un po' una caccia agli streghi. Gli stregoni. Esatto, tipo tutto da buttare, tutto da cambiare, non è questo quello che sta emergendo in questi anni. Tante persone, come dire, stanno anche cercando di riappropriarsi di una tridimensionalità maschile, magari non troppo concessa a volte o non troppo performata, perché siamo abituati a essere uomini sempre allo stesso modo, e quindi è molto interessante quello che si può fare sulla maschilità, ecco. E a questo punto, ultima informazione, last but not least, abbiamo fatto chiacchiere, abbiamo dato giustamente motivi di incontro e oltre, per avere più comodamente possibilità di consultare diamo alcuni riferimenti online. Potete andare tranquillamente sul sito leserredegiardini.it dove trovate tutto il programma per estese, o anche sui nostri profili social, Facebook e Instagram, Kilowatt, Le Serre, Osservatorio Maschile, Sì, in particolare sul sito delle serre, nella parte 20 c'è proprio una pagina interamente dedicata al festival con tutte le info, i partner, il programma giorno per giorno, tutte cose. Permettimi di fare un ultimo fondamentale ringraziamento al nostro sponsor che è Emilbanca, senza il quale questo festival non sarebbe stato possibile. Grazie Massimo, grazie Claudio. Grazie a te. Grazie, grazie mille. Poi considera, Anna, che il nostro lavoro inizia adesso, perché sai che c'è tutta la parte redazionale, i podcast, insomma, uno dice, beh, stai in radio, parli. No, non è, non è esatto, a parte che devi sapere quello che dici, che è la parte più importante, dopodiché... Sembra che tu non così parli e basta, in realtà c'è un lavorone, le persone non ti vedono, ma... Sono bello che sudato, forse è meglio che non... Posso dire che posso apprezzare la tua mise. Ok, oh, finalmente... Perché Silvia Albertazzi, Silvia Albertazzi ha detto di no, ma insomma, che dai. Posso dire? No, no, te la cavi. Grazie, cara. E quindi allora ci vediamo venerdì prossimo in diretta. Dai, va quando bene. Torni in diretta, ti aspetto, mi raccomando. Sì. Puoi sempre licenziarti, non lo so, cambiare vita totalmente. Magari, ma... ci sto lavorando. Noi vi auguriamo un buonissimo weekend estate, intanto gli appuntamenti... Oh, gli appuntamenti ci sono, eh! Le cose da fare ce ne sono! Ce ne sono! E poi al massimo avete il nostro sito, gli articoli che riporta Anna per la redazione culturale, oltre che parlare sa anche scrivere, abbiamo curato e molto bene, quindi www.radiocittafugico.it. Un buonissimo weekend, l'appuntamento è a lunedì con i magazine del Breakfast Club, inizia la terza settimana di luglio, piena estate, e quindi una buona estate, e per le super mattiniere e i super mattinieri ci ritroviamo alle ore 7 per Radio Città Fugico al Breakfast Club. Intanto una buona giornata e un buon weekend. Grazie Anna, ciao! Grazie, grazie a tutti e buon weekend. Ah, mando un saluto anche all'Edipo Enciclopedico, che è l'ultima puntata quest'oggi, non voglio fare quello che li trascura. No, no, grazie, grazie a Roberto Raspadori, Piero Di Domenico, il last minute, ultima puntata di stagione quest'oggi. Ciao! Ciao! Per ora.